11.09 sulle libere frequenze di Radio Blackout, prosegue la mattinata informativa con qualche minuto di ritardo. Inizia una nuova puntata di Parole e Ribelli, la trasmissione a cura del collettivo universitario autonomo. Quest'oggi in studio Francesca. E di informazione completa Parole e Ribelli. E allora un buongiorno a tutti e a tutte voi che siete in ascolto. Come sempre vi ricordiamo i contatti per scrivere a Radio Blackout. Per gli SMS potete scrivere al 346-667-3263, mentre il numero del telefono fisso è 011-249-5669. E ora andiamo a immergerci in questo martedì mattina con un po' di musica e poi presentiamo la puntata di oggi. Allora, a proposito di posti di blocco e servizi OCisti, ci segnalano appunto al 346-667-3263 che c'è appunto un posto di blocco degli sbirracci in Piazza Vittorio. الكوفي عطولي هالكوفي الكوفي الكوفي عربي think it's a trend, a fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The coffee ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable need the bandana. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, high, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini. Does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah. But I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists. Cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride. Wave it in the air, let me know what side you on. Yeah. The kafir is Arab. Yeah. It's M1. Solidarity, feel me, shout ya. From the ghetto to Gaza, I keep it RBG up. Yeah, bang for my flag. E allora 11:16 andiamo a presentarvi la puntata di quest'oggi in ordine sparso, diciamo, non necessariamente in quello che seguiremo. Comunque andremo a metterci in collegamento con un collettivo di studenti fiorentini che ieri è stato sgomberato da un liceo artistico che era occupato da alcuni giorni ormai all'interno della mobilitazione contro la buona scuola. Ieri c'è stato addirittura l'ingresso della Celera appunto per mettere fine all'occupazione. Questa mattina gli studenti sono in presidio all'esterno dell'istituto e stanno attendendo l'arrivo della preside, responsabile insomma anche della chiamata della polizia, e appunto si stanno facendo sentire contro quanto è accaduto ieri, quindi andremo a metterci in collegamento con loro per farci dare gli ultimi aggiornamenti. E poi ovviamente si è parlato più in questi giorni soltanto degli attentati parigini. Bene, abbiamo la fortuna di avere una compagna, diciamo, che ovviamente sta bene, che studia a Parigi da quest'autunno, con cui poi andremo in collegamento, che ha scritto un po' una riflessione appunto sul clima che si respira nella metropoli francese in questi giorni, e che ci darà un po' di aggiornamenti anche su per esempio il primo momento pubblico che ha contestato questa retorica della pace, o meglio della guerra in casa d'altri, e quindi insomma aggiornamenti da una Parigi che sta cambiando, diciamo, il suo assetto securitario prima di tutto, e che è all'occhio di un ciclone geopolitico che, diciamo, è tutto da analizzare. E proseguiremo poi con un po' di rassegna stampa, di aggiornamenti sia per quanto riguarda il contesto torinese che quello estero, insomma, anche su vicende che abbiamo seguito nelle scorse puntate. Questo è più o meno tutto, noi ci fermiamo qui, vi lasciamo ancora un pezzo musicale, prepariamo subito la prima diretta, quindi rimanete sintonizzati. Sì, e prima di andare verso il prossimo boom bap, rispondiamo al messaggio che ci è arrivato al 346-66-73-263, che chiedeva come si chiamava il pezzo che stava andando prima, il pezzo di Shadia Mansour, ormai una nostra affezionatissima, featuring M1 Dead Prez. Risparmio, sperando che ci siano arabo parlanti a questi che ascoltano questi microfoni, di leggere il titolo, perché violenterei una lingua bellissima, quindi andiamo oltre. Adesso prenditi il tuo tempo e i tuoi 2 minuti d'odio, goditeli tutti e poi sfrottati perché non sei sul podio. 200 pagine senza il tuo nome, punta il dito sul nemico e sfoga la tua frustrazione. Scegli un colpevole, la giostra è appena cominciata, la caccia aperta, questa è una voce registrata. Gioco aspetto della nuova propaganda, scorda ogni domanda, un'unica risposta, qualunque essa sia, nessun bisogno di pensare con ortodossia, solo un colore cieco, un velo nero sopra il cuore, un nuovo credo da adorare, il nome del sacro terrore, lampi nel cielo, sei sul canale terra, il mono a pezzi, arriva dallo schema, nuove internascita in Vangelo, dacci oggi il nostro panico quotidiano e piano, liberaci da tutto ciò che è umano. Questo è canale zero, edizione speciale, è tutto vero però niente è reale, canale zero, la verità virtuale, tutto normale, canale zero. edizione speciale. Qua è tutto vero, però niente è reale. Canale zero, la verità virtuale. Tutto normale, tutto normale. Rispetto mostra gli episodi mentre gridi sottovoce. O sei quello che pianta e che odio, sei quello sulla croce. La via più veloce se ascolti il lato oscuro. La bestia feroce nei volti del tuo futuro. Sono occhi nel buio che non trovano aperture. Sono occhi nel buio e sono come due fessure. Solo le tue paure sono schegge affilate, nocche dure, sotto armature spezzate. Non ve ne andate, restate per il finale, perché quando è finita comunque è finita male. È la vita che è uguale, è la vita che è uguale. State cambiando vita, state cambiando canale. Al mio segnale scatenate l'inferno. Cazzate se pensate sia soltanto uno schermo. C'è un occhio al suo interno, mi sta guardando l'anima. Il sangue sul quaderno adesso riempie un'altra pagina. E dopo immagina, già non sei capace di versare una lacrima e nemmeno mi dispiace. Lo so, non è efficace, purtroppo è tutto vero. Ti metto il cuore in pace, questo è il canale zero. Canale zero, edizione speciale. Qua è tutto vero, però niente è reale. Canale zero, la verità virtuale. Tutto normale, tutto normale. Canale zero, edizione speciale. Qua è tutto vero, però niente è reale. Canale zero, la verità virtuale. Tutto normale, tutto normale. Allora 11:21, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli sulle libere frequenze di Radio Blackout. Iniziamo con il primo approfondimento per la puntata di quest'oggi e come vi abbiamo annunciato pochi minuti fa abbiamo a questi microfoni Martina da Parigi, che intanto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ciao Martina. Ciao a tutti. Ecco, ciao, tu appunto da ormai un po' di mesi sei a Parigi per motivi di studio. Nei giorni scorsi, insomma, in quelli che hanno seguito gli attentati di venerdì 13, hai scritto una riflessione che poi è stata anche ripresa, insomma, su blog e siti, in cui riflettevi anche un po', appunto, dal punto di vista della tua posizione di studentessa che si trova lì, anche cosa significa, appunto, la questione della guerra e cosa questo significhi per noi. Sappiamo anche che in questi giorni, appunto, in questo clima sicuramente molto pesante che tu ben descrivi, ci sono stati dei primi tentativi di mobilitazione, appunto, di provare a uscire da questo clima di paura, di militarizzazione, su cui magari ti chiederemo dopo. Intanto partirei magari appunto dalle tue riflessioni, se hai voglia di condividerle anche qui a questi microfoni, poi magari approfondiamo un po' quello che è la situazione attuale. Va bene, ma diciamo che niente, mi sono ritrovata a riflettere un pochino su quello che stava succedendo, proprio perché quasi trovandomi in contraddizione con me stessa, perché proprio in quel momento in cui qualcosa succede vicino a te, allora ti rendi conto di quello che davvero sta succedendo su scala mondiale. E quindi niente, diciamo che ho provato un po' a riflettere su quello che è in realtà il terreno su cui si può, diciamo, su cui c'è un po' di margine d'azione, su cui mi sembra che in realtà non si sia stato fatto abbastanza fino ad adesso. E soprattutto perché, appunto, guardando poi le notizie, quindi anche tutti questi bombardamenti di notizie, di profili dei terroristi, eccetera, che però in realtà danno un'idea di quello che è la composizione, la soggettività di queste persone che appunto hanno fatto questi attacchi venerdì scorso, e diciamo che non ho riflettuto su quello che potrebbe essere il passato di queste persone, quindi il fatto che loro abitino comunque in banlieue, comunque in una situazione di marginalità, di stigmatizzazione, in una situazione che porta dietro tutta una serie di passati di colonialismo, di immigrazione, eccetera, con tutta quella serie di altre diciamo, difficoltà che sono poi il razzismo istituzionale, il razzismo di tutti i giorni, la difficoltà di accesso all'impiego, a scuola, eccetera. E diciamo che ovviamente non c'è alcuna giustificazione nelle azioni di queste persone, ma quello che mi interessava capire era appunto perché e da dove può nascere questo senso di autodistruzione e che per quanto mi riguarda appunto è stato inalato nel modo più sbagliato possibile, ovviamente, che però diciamo che parte da un terreno in cui ci possiamo ritrovare in qualche modo, nel senso che quel senso di precarietà, quel senso di sopravvivenza che appunto ci porta a questo sistema a dover vivere tutti i giorni, quel senso di violenza che appunto si subisce tutti i giorni, diciamo che appunto è il risultato di questo sistema che ci rende sterili. E se non si ha un'altra prospettiva, la prospettiva di un salario, di una città, di un appartamento di lusso in Siria piuttosto che un posto in paradiso, forse possono essere l'unica prospettiva e quindi diciamo una delle spiegazioni per capire appunto quello che sta succedendo. Sì, diciamo che non solo appunto diversi contributi che sono usciti in questi giorni, che provavano appunto a riflettere alla luce di quanto era accaduto a Parigi, insistevano anche un po' sulla necessità di provare a mettersi assieme appunto per confrontarsi su questioni che evidentemente chiamano in causa problemi molto più grandi su cui forse a volte fatichiamo proprio appunto a riflettere davanti a questa complessità. E mi sembra che anche un po' appunto il corteo che era stato lanciato domenica andasse un po' in questa direzione, cioè di sfidare appunto lo stato di emergenza, che in un certo senso spinge invece nella direzione opposta, cioè quella di chiudersi in casa, di isolarsi. Esatto. nella propria paura, di provare un po' a rompere questo isolamento e di iniziare appunto anche a mettersi proprio assieme. E in realtà se ho capito bene la mobilitazione di domenica era stata lanciata da tempo dai migranti che chiedono una regolarizzazione. Sì. Della propria condizione, ma si è poi trasformata appunto anche in un momento forte di contestazione dello stato di emergenza e delle ricadute reali che questo ha sulla vita di tutti e tutte, in particolare poi anche su i migranti che vivono già appunto una condizione di subalternità e di discriminazione. Esatto. Se hai voglia di appunto di raccontarci un po' di come è andata appunto questa giornata di domenica. Sì, diciamo che appunto prima di questa giornata l'atmosfera era appunto di grande militarizzazione, lo è ancora, perché appunto l'unica risposta che è stata data dal governo è stato proclamare appunto lo stato di urgenza, che è stato prolungato poi per 3 mesi. E che appunto tra le altre cose vieta tutte le manifestazioni, tutti i presidi, eccetera. Quindi niente, è stata una bella sfida quella di domenica, proprio perché ha ridato un po' di una spinta a quella che può essere appunto la mobilitazione rispetto sia a questi temi e sia al fatto che da questa settimana appunto sono previste tutta una serie di iniziative contro la COP 21, che è questa conferenza, questo summit mondiale sul clima che avverrà appunto a Parigi. E appunto con il corteo di domenica, che è appunto stato lanciato dai migranti, gli stessi migranti della Chapelle che da quest'estate si sono auto-organizzati e sono in lotta, e è stata mantenuta, e appunto è stato bello vedere la partecipazione comunque di più di 500 persone e appunto la determinazione nel voler fare questo corteo nonostante fosse vietato, e che appunto secondo me ha dato una spinta importante per anche le settimane a venire. Senti, tu appunto nel tuo pezzo parlavi anche un po' del clima che si respira in questi giorni nei quartieri popolari, comunque alla periferia di Parigi, quindi al di fuori poi del territorio che è stato colpito dagli attentati, ma sappiamo che c'è stato poi il blitz a Saint-Denis e che dopo quello, insomma, che è stato più raccontato dai media, ce ne sono stati anche altri negli ultimi giorni. Ti volevo chiedere magari qualche aggiornamento appunto su qual è la situazione attuale, qual è il clima che si respira. Sì, diciamo che appunto nei primi giorni in periferia, io abito a Montreuil, che è periferia est, diciamo, la situazione era abbastanza normale, diciamo che appunto anche nonostante avessero trovato la macchina con i Kalashnikov eccetera, qui il giorno dopo c'era il mercato, la gente per strada, non insomma c'è una reazione diversa rispetto a quello che poteva essere nel centro di Parigi, dove appunto c'erano stati anche molti movimenti di panico generalizzato, di folla appunto che nel panico più totale. E poi appunto con il blitz a Saint-Denis mercoledì scorso, diciamo che la situazione è un po' cambiata, soprattutto perché appunto Saint-Denis già di per sé una bandiera comunque stigmatizzata con tutta una serie di pregiudizi eccetera, e con questo blitz la risposta, la reazione poi del governo, dei media è quella di andarsene da Saint-Denis, di continuare a demonizzare questa banlieue, appunto dicendo anche ad esempio che questo palazzo che è stato attaccato dall'antiterrorismo, diciamo, era uno squat, cosa che in realtà non è vera, era semplicemente un palazzo che stava cadendo a pezzi già di per sé, che rientrava nel piano di rinnovazione urbana della città. E e tra l'altro durante il blitz un abitante di un appartamento è stato ferito al braccio, e adesso un egiziano di 63 anni che è San Papier, e appunto dopo essersi sbagliati di appartamento, dopo averlo ferito, gli hanno dato l'obbligo di lasciare il territorio francese, così come per tutti gli altri abitanti di questo palazzo che si ritrovano a vivere in una sala di una scuola a Saint-Denis senza sapere dove saranno rialloggiati eccetera. E quindi diciamo che appunto la situazione è un po' tesa da quel punto di vista lì. Ma, e quindi diciamo lo spazio, una domanda che mi viene in mente, una curiosità, è un po' abbiamo visto rispetto, cioè l'attentato di Charlie Hebdo aveva consegnato anche diciamo al nostro sguardo un po' più lontano una città completamente polarizzata, nel senso che poi di fatto appunto il livello simbolico di quell'attacco aveva visto anche i simboli stessi, diciamo appunto, che erano stati colpiti, poi organizzarsi tra virgolette e rispondere. Abbiamo visto il fortissimo impatto del cordone di Parigi che aveva provocato un tweetstorm. Quindi è anche le banlieue che in qualche modo rifiutavano di andare al centro della città per un corteo diciamo di difesa di un qualcosa che poi di fatto al di là dell'islamofobia e tutta una serie di cose è più che altro completamente alieno, poi non appartiene neanche geograficamente come diciamo come percorso, né men che meno come sentimento. Sembrerebbe invece che in questo caso sia un po' meno netta da questo punto di vista, ma che poi invece siano polarizzate altri tipi di opinioni, tipo cioè che anzi appunto si sia puntato anche il dito un po' contro il governo. Dall'altra parte quello che dicevi tu appunto, in realtà appunto parte della domanda hai già risposto rispetto al clima e al fatto che sì, non dobbiamo farci intimidire tutto quanto, poi però la gente va abbastanza impaurita per strada. Allora questa, diciamo, questo post attacco, vedi che ha una polarizzazione anche appunto rispetto alle geografie della città, ai flussi urbani, e un po' quali sono, vedi che li interrompe, li ridisegna, oppure appunto come per un Charlie Hebdo ci sono due Parigi, una centrale a pagamento e diciamo apparecchiata per l'essere anche venduta e rappresentata, è una Parigi che rimane completamente fuori? Ma diciamo che appunto, come dicevi tu, le reazioni sono abbastanza diverse. Appunto con Charlie Hebdo era molto più, diciamo, immediato anche posizionarsi e essere contro, cosa che appunto era molto evidente nelle banlieue parigine. Ora come ora appunto mi sembra meno netta la differenza. Appunto a livello di quotidianità, nonostante ci sia questo tentativo comunque di reprimere un po', anche di mantenere comunque calme quelle zone che possono essere considerate sensibili, diciamo che non c'è questa grande differenza, e appunto la vita quotidiana continua e la gente per strada, eccetera. Direi che a livello poi anche di mobilitazioni sicuramente si vedrà quello che sarà poi il risultato, anche perché ci sono tutta una serie di iniziative e di riunioni e di assemblee sparse un po' in tutta Parigi, ma appunto anche in tutte le banlieue, in tutti quei comunque luoghi che hanno il loro margine di azione in banlieue, e appunto si vedrà come appunto verrà organizzata la risposta, anche appunto soprattutto per le conseguenze dirette che appunto sono questo stato di urgenza e di sicurezza al massimo livello. E senti Marti, un'altra domanda, ma c'è qualcuno che oltre al discorso del no alla guerra, non diciamo non bombardate in Siria piuttosto che Raqqa, dice armiamo il PKK? C'è qualcuno, c'è qualche discorso diciamo sul territorio che provocatoriamente più o meno dice ok, invece di quello che può essere stato il Not in My Name, piuttosto che un discorso diciamo pacifista del disarmo, c'è qualcuno che dice no, questi altri sono armati, bisogna dare soldi e armi e finanziare chi effettivamente li sta combattendo? Sì, ma diciamo che appunto per quello che ho potuto vedere, uno dei temi poi che sono usciti subito appunto quello dell'antimilitarismo, del perché abbiamo abbandonato il movimento antimilitarista, bisogna riprenderlo, eccetera, quindi sicuramente c'è questo livello qua. L'altro livello, forse più informalmente, però non mi sembra sia stato proprio organizzato come discorso, come analisi. Sì, si dice certo sono i curdi gli unici che combattono veramente Daesh, ma oltre al ban su Facebook diciamo che non è uscito questo discorso, dopodiché appunto è un po' complicato anche riuscire a capire quali sono le analisi che vengono fuori in queste settimane, proprio perché ci sono molti spunti e sono tutti molto diversi e non c'è molto coordinamento tra le realtà, diciamo. Ok Marti, grazie mille, noi segnaliamo diciamo ulteriormente il tuo contributo su InfoOut, cioè abbiamo creato una pagina che raccoglie un po' tutte le riflessioni che ci sono sembrate più interessanti, che ci sono sembrate un po' più nell'ottica di problematizzare poi di fatto quello che è lo scenario che abbiamo davanti, che effettivamente diciamo se è vero che siamo un po' in una, nell'apertura di una seconda fase di crisi globale, sicuramente, diciamo, questo avvenimento ne ridisegna gli assetti geopolitici, o comunque, se non, diciamo, ne ridisegna nei termini esteriori, perché sfortunatamente non sarà una bomba a Parigi a cambiare, diciamo, tutta una serie di cose, di cui piuttosto, anzi, essa è la manifestazione del cambiamento, di una serie di equilibri. Quindi noi rimaniamo un po' in aggiornamento, speriamo al più presto di risentirci con notizie dal territorio, un po', insomma, da, speriamo di sentire aggiornamenti da Parigi rispetto al percorso che quello che potrebbe essere, ci auguriamo sia un percorso che si può essere aperto nei giorni scorsi. Esatto. Grazie, grazie mille, Martina. A risentirci grazie presto. Grazie mille a voi. Ciao. Ciao, ciao. Allora, questo per quanto riguarda appunto il primo approfondimento che vi avevamo proposto, e adesso direi che facciamo una pausa musicale dopo questa diretta, poi proseguiamo con altri argomenti. Hold up. Hold up. Let me get my mind. Let me get my mind right. Yeah. Let me get my mind. Let me get my mind right. You know everything is alright. You know everything is alright. Just ride with a motherfucker. Keep it real, never lie to a motherfucker. Hold me down. Chillin' in the got a DeVita, rockin' Adidas with a senorita. And she's sippin' liquor by the leader, that's royalty. Like the homie Gambino, he know we be in the casino. Like in Cubans with a T-note, I'ma fuck the game. Yeah, yeah, this is my libido. Coming up shorter than Danny DeVito whenever I step on the beat, ho. Like a kilo on the creep slope. Have my share of defeat, but we still gon' eat, ho. Why the fans bump a book that's forever on repeat, though. Wondering if I'ma ever fall off. Feeling mad at the world when they hit it with a start off. Going up like I'm on the dog. This is war, everybody ain't no reason I'ma cut it off. Get it right. Shout out to the homie Dizzy Wright. In the studio every day, so you know this shit about to be a busy night. Everything is alright. Everything is alright. Finally famous over everything. Everything is alright. Rap hat gang. What up, though, Logic? That one shit right there. Hold up, hold up. Let me get my mind, let me get my mind right. Yeah, let me get my mind, let me get my mind right. You know everything is alright. Shine, you know everything is alright. Oh my god, they plotting and scheming. Fuck boys, rather me not even breathing. They trying to take my blessings away. They gotta be demons. I'm blessed every day and I bless like I'm sneezing. I'm healthy and well on top of my ship and I'm not even sinking it. I could just sit back and say that I'm happy, but can't spend a day without smoking and drinking. Got champagne problems. And I order more of my wardrobe. It's or gold. I'm a young nigga with an older soul, but still young enough to know I gotta know some more. I made something out of nothing, shine down the magician. Yeah. She doing tricks with a pussy, I guess she's a magician. She trying to hold on to a nigga, stack, stacking up. Purell, but he's fake, niggas trying to dab me up. Hype nigga, back it up. Claiming that we homies, boy stop, that's the type of shit a boycott. Yellow fuck the 5-0, state troops, any nigga with a badge, I don't even trust a boy scout. Got these good girls going out, tell me what the fuck you know about. Being that nigga that these niggas don't know about. Then they throw you in the game and you motherfucker blow it out. Now everything is alright. Hold up, hold up. Let me get my mind, let me get my mind right. Yeah, let me get my mind, let me get my mind right. You know everything is alright. Yeah. You know everything is yeah. Moving through Gotham, hating motherfuckers, I'm on the off. I'm hella and off. It's got me living like to the coffin. I'm coughing, wondering if I'm going insane. Nobody know all my pain, but I be killing cause I'm into the game. Now looking back, it's like I'm nothing the same. All these Spanish women watching me like a novella. Hit you with a Beretta, get you wetter than a novella. Ain't nobody better do it like me. I know a lot of motherfuckers don't like me. Probably wanna fight me, but I just keep the peace. No need to keep a peace. I keep my enemies on a leash, capiche? And keep it real for the people I reach. Mal he visto, la gente no se olvide, città m'ha dato sabbia e sta acqua salata, diciottenni a mano armata e una mentalità dell'ottocento, fitta al baricentro quando sento i bambini fatti fiero nel sottopasso in stazione, solo per la noia ed una distrazione. Ho messo il culo in ogni via da Genova a Mentone, me la sento mia in ogni mattone, pacco a portone, e sto deserto me lo porto addosso, e se mi guardi male se ho portato il nome nostro in tutto lo stivale. Qua siete tutti bravi, non siete un cazzo schiavi, limitati alla vostra via tra bar e birreria e giudicate bravi, ma il marcio non lo lavi, e stare dove l'aria è stantia non è la vita mia. Mi fate schifo quando mi date il sorriso, perché se vi guardo poi ringrazio che non sono come voi. Tre puttanate peccate di presunzione, qua vi ho sempre rotto il culo a tutti quanti con educazione. La mia città non mama, io sì ma lei non chiama, e mi aspetta nella tempesta col veleno in testa. Patria di militari, di vecchi immortali, mentalità regressa, pose da finta protesta. La mia città non mama, io sì ma lei non chiama, e mi aspetta nella bufera, infamia e cattiveria. Birri violenti, mezza provinciali, dediceni, invidia e mostre, che non voglio fare la fine vostra. È un conflitto d'odio amore che ghiaccia ogni sentimento, nessuno è profeta in patria, per me puoi creparci dentro. Tira un brutto vento, rancore più tradimento, il cicaleggio da puttane quando passi per le vie del centro. La verità, tengo per me la verità, dico la merda dalla bocca e mi processi per poco onestà. Sotto chi tocca ce n'è per tutti i gusti, fin tanto che non resisti, giù da diavoli, martiri e cristi. Si stanno accanto, eretti a paladino, puoi tenerti quei sorrisi, fai pena da quanto sei meschino. È un'altra iena che brama per la tua via, la città che sta in balia, mediocre come la sua borghesia. Serve passione, si sa, ti ha messo il cuore, la faccia tra denuncio, rispetto per ste persone. Restate all'ascolto, non spreco mezza parola, parlate già da soli, siete cani senza multeruola. La mia città non mama, io sì ma lei non chiama, e mi aspetta nella tempesta col veleno in testa. Patria di militari, di vecchi immortali, mentalità regressa, pose da finta protesta. La mia città non mama, io sì ma lei non chiama, e mi aspetta nella bufera, infamia e cattiveria. Spiriti violenti, mezza provinciali, dice invidia e mostre, perché non voglio fare la città non mi dà nulla indietro, non caccio i soldi né mi dà un impiego, non sai dove si trova manco se lo spiego. Piazze deserte, chiuse come braccia conserte, la gente che conosco c'ha lo sguardo inermi in più mi dà del verme. Ce l'hai con me che manco mi saluti, hai visto come guardi e sputi, mi parli come gli sconosciuti. Siete male lingue piene di saliva, infami come sbirri, stessa pasta cambia la divisa. Non c'è sativa, schizza l'eroina, qui non ci sono i blocchi e gli occhi si fermano alla vetrina. È tutto decoroso, ma dentro è marcio e schifoso, se lo metti in quarantena resta contagioso, serve un rogo. Non mi cercare per favore, vali 4 lire, so che per finire mi auguri di morire, ma tutto questo alza la posta in palio. Se hai bisogno di una mano piuttosto me la taglio, non sbaglio. La mia città non mama, io sì ma lei non chiama, e mi aspetta nella tempesta col veleno in testa. Patria di militari, di vecchi immortali, mentalità regressa, pose da finta protesta. La mia città non mama, io sì ma lei non chiama, e mi aspetta nella bufera, infamia e cattiveria. Spiriti violenti, mezza provinciali, dedice invidia e mostre, perché non voglio fare la fine vostra. Allora 11:48 sulle libere frequenze di Radio Blackout, sulle note dei DSA Commando, torniamo in onda con Parole Ribelli, e prima di proseguire con la prossima diretta con gli studenti di Firenze ci occupiamo di un po' di rassegna stampa. Per ora partiamo dal contesto locale, in particolare dall'Università di Torino, dove da ieri si è aperta la settimana di degli esaminatori dell'ANVUR, questa agenzia nazionale che è nata da alcuni anni, che si occupa appunto di esaminare gli atenei italiani e di schedarli gerarchicamente secondo una serie di parametri. Il dato interessante è che l'Ateneo di Torino è il primo a sottoporsi alla valutazione dell'ANVUR e si è candidato addirittura volontariamente, come ha sottolineato il rettore Gianmaria Agliani, mentre a partire dal prossimo anno tutti gli altri atenei verranno scelti uno per volta, appunto, proprio dall'ANVUR per essere appunto esaminati. Il nostro rettore ha invece valutato che l'Università di Torino fosse pronta per l'esame, che ne sarebbe uscita evidentemente bene, ma bisogna anche insomma considerare in che cosa consistono appunto questi esami. Di fatto si tratta di appunto, Ayani ha detto che l'Università di Torino in questi anni ha lavorato per superare con successo questo tipo di valutazione, ma si tratta appunto di dati, di parametri assolutamente di facciata, che servono poi di fatto a decidere la spartizione delle poche e scarse risorse che sono rimaste per l'università tra i vari atenei pubblici. Appunto, quelli che risultano, quelli che usciranno meglio di fronte agli occhi dell'ANVUR, potranno ambire appunto a qualche riconoscimento, magari qualche finanziamento. Quindi si tratta sostanzialmente di mettere le università una contro l'altra in questo processo che è a tutti gli effetti un processo di ranking, appunto, di creare classifiche degli atenei, creando le università di serie A e di serie B. E, appunto, questo tipo di parametri, però, anche delle ricadute reali. Teniamo conto, ad esempio, che una delle cose che viene valutate dall'ANVUR è, ad esempio, quanto costano le tasse per gli studenti, e nell'Università di Torino queste sono aumentate notevolmente negli ultimi 4-5 anni, e questo appunto sarebbe probabilmente uno dei dati che Ayani ha portato come positivo agli occhi dell'ANVUR. Quindi si tratta appunto di una serie di cose che vanno, insomma, ad approfondire tutti i processi di privatizzazione e di riduzione dell'accesso alle università. Comunque, appunto, queste esaminazioni si sono aperte ieri, proseguiranno fino a venerdì, stando a quanto leggiamo su un articolo che è uscito su Repubblica Torino qualche giorno fa. Sono in tutto 22 esperti che prenderanno in considerazione 15 corsi di studio su 150 aperti e 5 dipartimenti. Gli esami coinvolgeranno i vertici dell'Ateneo, da Ayani al prorettore, ai suoi vice, passando per il direttore generale e i componenti di senato accademico e CDA. Ci saranno anche incontri tra studenti e valutatori senza la nostra presenza, poi spiegato una delle docenti coinvolte in questa cosa. Ci saranno ispezioni nelle aule, nelle mense, negli uffici del rettorato. I voti possibili vanno dalla A alla D, che corrisponde alla cosiddetta insufficienza, e i risultati verranno poi pubblicati a marzo. Ecco, anche in questo, insomma, capiamo quanto possono essere, insomma, realistici o dare un'idea obiettiva di un'università, appunto, dei controlli fatti su una settimana in una serie di aule a caso, in base a non si sa bene che cosa. E appunto quello che ci interessava però sottolineare che tutte queste strategie, appunto, anche un po' queste vetrine, insomma, l'Università di Torino ha pubblicizzato da mesi il fatto che sarebbe stata il primo ateneo a sottoporsi a questo esame dell'ANVUR, rientrano appunto all'interno di tutta una serie di strategie su come l'università sta cambiando, è cambiata e continua a cambiare. Comunque vediamo che già questa mattina sono apparsi alcuni striscioni contro appunto questa calata degli esaminatori. Vedremo come proseguirà durante appunto questa settimana, magari ne riparleremo anche all'interno della prossima puntata, e vedremo poi, insomma, con quali voti il nostro ateneo verrà promosso o meno dagli esaminatori dell'ANVUR. Insomma, intanto ci interessava dare questa notizia. Adesso facciamo una breve pausa musicale, poi ci spostiamo invece altrove, sempre con qualche aggiornamento. Hey, yo, this song is so racist right now. Put the headphones up, let these brothers know what the Middle East is about. Play a Inagia Busta, misrepresent us in Dubai. It ain't Arab money, it's called Arab money. Play a Inagia Busta, Arabs don't play up in Basra. It ain't Arab money, it's called Arab money. Like Ibn, your Arab boys like Shook, Itzin. If I was them, I'd have told her the hook is dead wrong. Tell the homie Von Brown, skip to the next song. Truth is, I can see through the playback funny. Yo, son, let's do a track about A-Rap money. I need the pain of my people, blood run thicker than all your bills. The word A-Rap like Nick. Allah, you ain't a Giavasta. Misrepresent us in Dubai. It ain't A-Rap money. Basra. Arabs don't play up in Basra. It ain't Arab money. It's called Arab money. Brother, the life is too biased. Talk about it's Middle East and Dubai. Even if you never heard of me verbally, you should have done your research about the current state of currency. We hurt way more than we ball. In Palestine, kids can't shop at these malls. My nation on my back, look how proud we are. America busting nuts on Saudi Riyals. Misrepresent us in Dubai. It ain't Arab money. It's called Arab money. Allah ya ayna gya basta. Arabs don't play up in Basra. It ain't Arab money. It's called Arab money. Yeah, I got the nerve to burn bridges like Halliburton. John McCain with Sarah Palin while he flirtin'. Had to bust a rhyme just to poly work it and set the standard straight out the violent surface. From lawmakers stripping this long naked. The strong face of the wrong figures and call nature see. The truth in America's hip-hop's gone sacred. Not to generalize all the song's racist. Allah ya ayna gya basta. Misrepresent us in Dubai. It don't get it twisted. It's called Arab money. Not all Arabs are rich, my brothers and sisters. Arabs don't play up. Get in your history Basra. Right. It ain't Arab money came from British it's colonialism. Money. Yeah, so that means the slave master got you back. So when you look at that money in your pocket, make sure you spend it right. Malayaki. Última dosis. Encuentro bajo cero, mi cuerpo ya es inerte. Para serle sincero, no tuve mucha suerte. Mi madre dice que duermo, espera que despierte. Siempre quise ver quiénes lloraría mi muerte, quiénes estarían conmigo hasta el final. Por eso me quedé visitando mi funeral. Quiero ver a quienes mis raciones contagió antes de irme con el que siempre me protegió. Vino mucha gente y sé que todos me están viendo. Por eso morí como viví, siempre sonriendo. Algunos parafrasean mis rimas entre murmullos. Me voy tranquilo pues llené a mi familia de orgullo. Con mi ropa favorita de ustedes me despido. Ya me llevan cargado todos mis seres queridos. Fui estricto al pedir que mi velorio pusieran la canción que dice como siempre fui a mi manera. Mis amigos con los que tomaba cada fin. Les pido que tiren un poquito el suelo cuando brinden. Y al que no me conoció, dígale que fue aquel muchacho que siempre improvisaba cuando estábamos borrachos. Espero que los que asistieron siempre me recuerden, que aprendan a vivir su vida o se les pierde. Es cierto que me fui, pero viviré por siempre. Y no quiero que me lloren cada 20 de septiembre. Y no me lleven flores, llévenme en sus almas. No me despidan con lágrimas, despídanme con palmas. Y no pierdan la calma, mejor pierdan el miedo a seguir viviendo aunque te apunten con el dedo. Y no me lleven flores, llévenme en sus almas. No me despidan con lágrimas, despídame con palmas. Y no pierdan la calma, mejor pierdan el miedo a seguir viviendo aunque te apunten con el dedo. Caracterizado por sus sonrisas y sus ganas de seguir adelante aunque la gente hiciera caras. Ha muerto el mejor rapero de Guatemala, eso dirá la prensa mañana por la mañana. Pero por el momento disfruto mi último instante en la superficie donde yo luché constante. Lo único que me consuela de esta situación es que bajo tierra puedo escribir mil canciones. Yo no quisiera irme con el corazón roto, pero me doy cuenta que el dolor lo causamos nosotros al enamorarnos de quien no nos ama nada. Y yo me fui del mundo sin hallar a la indicada. Sé que cada cabeza es un mundo. Mi mirada era perdida, pero conocí el rumbo. No cambié por nadie más de alguien se molestó. Siempre me comí las uñas aunque nunca me gustó. Traté de ser feliz porque de eso se trata este juego de la vida, aunque resulte ingrata. Hoy se va un alma más y resulta ser la mía. Ahora daría todo por poder vivir otro día. Y no me lleven flores, llévenme en sus almas. No me despidan con lágrimas, despídame con palmas. Y no pierdan la calma, mejor pierdan el miedo a seguir viviendo aunque te apunten con el dedo. Y no me lleven flores, llévenme en sus almas. No me despidan con lágrimas, despídame con palmas. Y no pierdan la calma, mejor pierdan el miedo a seguir viviendo aunque te apunten con el dedo. Quiero ser un hombre más en una lápida. No quiero ver a quienes quiero botar lágrimas. Hoy se apaga un latido en el corazón del mundo. Ahora bajo sin sentido en un sueño muy profundo. Espero haber sido un ejemplo a quienes me escuchaban. Fiel rapero que en canciones te decía que lucharas, que escucharas, que opinabas, que odiabas, que perdonaras, que dejaras de esperar un cambio que lo provocaras. Enamorado eternamente de los nervios que recorría mi cuerpo justo en los momentos previos a subir al escenario. Tuve el privilegio de trabajar de algo que no aprendí en el colegio. Me puse a rimar y lo tomé como tarea. La vida da tantas vueltas que hasta te marea. Siempre contra la marea, aunque no apoye el viento. Siempre contra, siempre rap, contra no está muerto. Y no me lleven flores, lléveme en sus almas. No me despidan con lágrimas, despídame con palmas. Y no pierdan la calma, mejor pierdan el miedo a seguir viviendo aunque te apunten con el dedo. Y no me lleven flores, llévenme en sus almas. No me despidan con lágrimas, despídame con palmas. Y no pierdan la calma, mejor pierdan el miedo a seguir viviendo aunque te apunten con el dedo. Outstanding production. :00 spaccate di questo 24 novembre, martedì, sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250 siete all'ascolto di Parole Ribelli. E andiamo avanti con la rassegna stampa, diciamo, andiamo dall'altra parte del mondo in questo caso, perché continuiamo, diciamo, a seguire le lotte negli Stati Uniti, che continuano a loro volta a seguire la linea del colore. Abbiamo visto recentemente quelle che sono stati i lasciti, tra virgolette, di ciò che è successo a Ferguson, prima a Baltimore e poi a Ferguson, di fatto poi ha sollevato una questione che è all'ordine del giorno, è quotidiano negli Stati Uniti, ma che sta trovando, diciamo, delle forme di organizzazione per poi essere messa in discussione, ed è il razzismo nei confronti in particolare della comunità afroamericana, però abbastanza trasversale, nel senso che poi la condizione, diciamo, di classe è di fatto quella che sancisce le reali differenze, tant'è che appunto la linea del colore divide bianchi da bianchi e neri da neri, perché poi non necessariamente poi lo stare in una posizione di subalternità coincide col colore della pelle, con qual è il posto del colore della pelle. Allora era stato molto interessante vedere come nell'università, nel Minnesota, era stato poi messa in questione il contenuto di determinate lezioni, la legittimità di determinati professori a esprimersi senza riserve, senza prendersi la responsabilità anche della posizione in cui si è, non tanto per una questione etica quanto perché ti prendi migliaia di dollari al mese, io ne pago non si sa quanti, mi indebito tutto il giorno. La cosa migliore che si potrebbe fare almeno è non sentirmi discriminato in classe. Questo ovviamente belle parole, probabilmente, o meglio, sono sicuramente valori incontestabili, dopodiché non è su un discorso morale che si consuma la questione, quanto su a chi fa comodo che ci sia un segmento sociale che viene continuamente tenuto subalterno. E allora i luoghi, diciamo, della formazione, che altro non è che d'élite negli Stati Uniti, stanno vedendo esplodere questa contraddizione in maniera abbastanza netta, proprio perché giustamente, diciamo, non sono luoghi in cui viene introiettata la posizione dello sfigato da coloro che li attraversano. Appunto, grazie al cielo la formazione continua ad essere un campo di battaglia, continua appunto a formare anche nonostante lo svuotamento di senso delle sue istituzioni, delle teste pensanti. Bene, questi teste pensanti sono date appuntamento davanti al rettorato di Princeton e hanno portato avanti un sit-in di 32 ore in cui hanno chiesto di rivedere, diciamo, l'importanza della figura storica di Woodrow Wilson, che è poi di fatto il presidente storico dell'Università di Princeton, un personaggio che sostanzialmente è di fatto non nulla più nulla meno che razzista. Ha lasciato, diciamo, agli iscritti parecchie prove certe di questo suo orientamento. Comunque, come del resto, vabbè, sappiamo, appunto, l'antropologia paga un debito al colonialismo non indifferente, quindi il rapporto, diciamo, tra il sapere poi e come si strutturano, appunto, le geografie poi dello sfruttamento, ma anche le geografie proprio dei flussi migratori, da sempre un tema caldo. Ecco, allora gli studenti di Princeton di fatto si sono messi nell'ottica di rimuovere anche questa memoria condivisa, e dicono tanto condivisa poi di fatto non è, perché io con Woodrow Wilson da studente afroamericano non c'ho niente a che vedere. E allora, appunto, anche la sacralità delle istituzioni del sapere viene direttamente messa in questione, l'oggettività del sapere anche, e non possiamo far altro che guardare con favore a questa accadimento. Videoclip in HD e in più cerca di rogne col deforme e coi debutti. Polvere sui dischi, il pelo aumenta insieme ai vizi. Bella prassi, tu le viste, MC depressi danno dignità. In cambio di un anno da star, ma barubà. Io ci metto amore in base al mare che c'è fuori. Tra chi si lascia andare al cachet dei suoi padroni. Siete clown, fate radio, ciao. Federato al sound, serpente se non suono. L'etimo, il battesimo del fuoco. Il vuoto, non lo colma un voto. La vendetta un piatto, una ricetta per ogni cuoco. Ma ci sta uno stronzo in divisa tra me e la libertà. Tra basso senza piombo, in voce di franchi paschi per rap. Da partita IVA compassiva, ira compassa in riga, poi mi sudo al culo che ti fa la vita amara. Armaci per il conflitto, uccidi il ricco, muori provandoci. Il ritmo della serpe che non striscia, lascia perle sulla spiaggia come l'onda che risacca. Se dalla doppia H ti aspetti un'altra pacca, sulla spalla sono il peso, sulla schiena che ti accascia. Lascia sta, va da sé, nada se rapa. Peso alle parole, le distilla come grappa. Fa la posta giusta, strategia del pesce palla, con la bolla d'aria in pancia che ti gonfia come un push-up. Emergenti come stronzi a galla, ma è la merda in un barile, prova a rime, starra. Ciò che tiene questa scena finché poi non crolla. Fuori dal greggio regge solo l'ultima colonna. Famoso per un quarto d'ora ancora, come dice Warren. Burattino che non spara è buono per riproporre un suono. Poi canti chiaro il testo, meglio non dirlo. Resto nel deserto con la scocca dell'armadillo. Il pollo doppia P, pubblicità progresso. Il beat si ferma qui, è il mio che corre l'estro. Se poi ci aggiungi l'estro, la rabbia, il cuore, il lessico. Il cantico del diapason, il risultato dell'estrigon. Poco poco era il tuo amore. È sempre poco il fuoco. Tanto, tanto invece il male. Che metti in questo gioco? Poco, poco era il tuo amore. È solo il fuoco greco. Tanto, tanto invece il male. Che metto in questo gioco? Poco, poco era il tuo amore. Il limite che mi dai vita? Tanto, tanto invece il male. Al limite che segue l'ordine. Se l'irite non vede, quanto, quanto ora mi costa. L'elettore è complice. Se è vero che ogni epoca ha la musica che merita, la verità sorriderà. Chi medita sulla realtà decrepita, se fetida la traccia non seguirla. Idea dalle una fogna, Arianna e Giacca Rogna, non salvarla. E sia l'eutanasia di questi pop che è diventato giro per gli spotti che parla. Brucio di sotto fondamenta, l'entropia del mondo. Quando ti presenta il conto sarà un vanto per la gente, per la gente che ti ha spinto. Ultima MC non rapito, guarda questa luna. Lascia perdere il dito che la punta, che la punta disciplina sia la grinta. La consapevolezza che ogni via uscita è finta. Come una porta dipinta, quindi non affida a la spinta per emergere, è una pinta il compito di immergere le paranoie antiche, come se cuoie nemiche, sorride a chi la coglie tra le foglie della vite. Quando componi ponete ricorda, fini quell'arma che è come la corda tesa di una bionda resa, non è contemplata ora per l'ultima aurora, un'ultima colonna sonora, questa è carne e senti come suona. Sulla traccia Highlander, tra le salme siamo solo carne, allarme banditi, razziamo banchetti imbanditi, settiamo, armiamo i fucili, clic clac e ceracca ai vinili. Prima Roma Est è un nido di respe, connette, quadraro, prene. Noi coi b-boy mutoi, fatevi download, serpenseno, vi intercettano l'android. Poi sangue detersivo all'ora dell'aperitivo, cerchi un posto in paradiso, un passaporto pulito, impunito scudo sul tuo piatto d'indulgenza. Pensa, ci divide un muro che dà senza la violenza. Brindo alle viscere di un bimbo che ferisce sullo spirro, che perisce in un minuto d'agonia. Per la via un tributo di poesia, sai perché? La strada non ti vuole, finché l'amor mio non muore. Esté donde esté, yo te llevo aquí. Vaya donde vaya, siempre pienso en ti. Quiero hallarte ya que nuestra vida compartir. Compañera de mis días, serás hasta el fin. Voy hasta el fin de la vida. Juntos como el ritmo y la poesía. Amame y confía. Eres la melodía que viví en mis días. Yo a ti te espero, aunque a veces me desespero. Si no vienes luego yo tendré que ir primero. Bien sabes que te amo tanto como un fanático. Y cuando vamos enojado el tiempo no pasa rápido. En la cama recostado mirando el techo te pienso. Pregunto dónde estás, cómo estarás en mi recuerdo. Eres mi proletaria más preciosa del país. Y lo único que quiero es verte hermosa de feliz. Y ojalá que tú a mí y ser el hombre de tu vida. Y que me ames con locura sin tus trampas negativas. Como si cada día fuera el último en vivir. Y sos mi amiga, mi amante, al mismo tiempo que hasta el fin yo. Nos entendamos perfecto. Y entre tú y yo hagamos el mejor complemento. Que nuestro amor no disminuya nunca en magnitud. Igualito al de los abuelitos de la película. Hagamos trato, ponte mis zapatos y yo los tuyos. Y acabamos con los malos ratos que nos dan orgullo. Tienes que ser más duro, el muro que más resiste. Y al final los dos acabamos apenados, desolados y tristes. Te amo fuerte tanto como ayer. Igual todavía es un hormiguero cuando te ve. Quiero beber de ti hasta quedar borracho. Y es que mi mejor carrete sigue estando ahí entre tus brazos. Esté donde esté, yo te llevo aquí. Vaya donde vaya, siempre pienso en ti. Quiero hallarte ya si no es mi vida compartir. Compañera de mis días, serás hasta el fin. Voy hasta el fin de la vida. Juntos como el ritmo y la poesía. Amame y confía. Eres la melodía que quedí en mis días. What? Allora 12 e 14 sulle libere frequenze di Radio Blackout, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata di Parole Ribelli e come vi avevamo preannunciato in apertura ci mettiamo in collegamento con Firenze, dovremmo avere a questi microfoni Andrea, uno studente del liceo Alberti. Ciao Andrea, ci senti? Sì, ciao, vi sento. Ciao, un saluto. Allora, con te volevamo ripercorrere intanto quello che è accaduto ieri appunto nella tua scuola, il liceo Alberti di Firenze, che era stato occupato ormai da alcuni giorni, dal 19 novembre se non sbaglio, in cui ieri c'è stato appunto uno sgombero violento da parte addirittura della Celere che è entrata nella scuola appunto per mettere fine a questa esperienza. Sappiamo che oggi avete risposto insomma a questa intimidazione ritrovandovi all'esterno della scuola con un presidio, quindi ti chiederei insomma di ripercorrere un po' quanto è accaduto ieri e aggiornarci su come sta proseguendo oggi la faccenda. Sì, noi abbiamo iniziato a occupare appunto da venerdì barricandoci dentro scuola, iniziando un percorso di iniziative e di lotta che poi avrebbe portato alla mobilitazione del 25 contro la NATO. Difatti la motivazione principale che ha causato lo sgombero è proprio il Senato, che essendo gestito a livello di ordine pubblico dal Ministero degli Interni e non dalla Questura di Firenze, avere una base occupata tra la Questura e Palazzo Vecchio dove si terrà il vertice Senato con la probabilità che partisse un corteo dalla scuola non era ammissibile. E quindi ieri intorno alle 14.50 hanno minacciato una ragazza di scuola che voleva entrare all'interno dell'istituto, dicendogli che se non li avrebbe fatti entrare l'avrebbero portata via. La ragazzina ha bussato, quando gli studenti occupanti hanno aperto la porta sono entrati dentro spintonandoli, la celere ancora non era arrivata, era ancora fuori e sono entrati dentro con uomini della Digos più 4-5 della scientifica armati di telecamere per filmare tutto quanto. Hanno iniziato a chiedere i documenti agli studenti, facendogli uscire uno per uno, passando appunto da inquadrandoli ogni volta che uscivano con la telecamera. E poi all'esterno della scuola abbiamo aspettato che si radunassero tutti gli studenti che erano ancora dentro, che stavano raccattando le loro cose, zaini, sacchi a peli, coperte, casse e quant'altro. E dopo all'uscita, perché la celere non è entrata dentro, la celere è venuta di supporto all'esterno, schierandosi ai due lati dell'entrata per impedire che potessimo riaccedervi o comunque sia per prevenire qualsiasi tipo di nostra iniziativa. Noi abbiamo deciso di andare a fare un'assemblea in polveriera, che è un posto occupato nella mensa universitaria, e abbiamo deciso di scrivere un comunicato che abbiamo fatto girare su internet e che oggi abbiamo distribuito al presidio, che abbiamo appunto lanciato da questa assemblea, lanciando un presidio davanti a scuola, poiché oggi si sarebbe tenuto un consiglio dei docenti che è tuttora in corso. Di fatto noi stiamo aspettando dalle 8 di stamattina che la preside esca fuori a parlare con noi, che faccia una dichiarazione, dato che ha detto espressamente che non è opera sua. Allora, se non è opera sua, noi chiediamo da parte sua almeno una dichiarazione, una presa di posizione in solidarietà con noi, altrimenti noi chiederemo sicuramente le dimissioni. Per adesso è entrata una delegazione dentro il collegio dei docenti che sta chiedendo alla preside di uscire e di farsi vedere da noi per avere un confronto. Il presidio stamattina è andato abbastanza bene, è stato molto dinamico, anche perché è stata una cosa lanciata abbastanza al volo e quindi tanti studenti di altre scuole sono dovuti andare a lezione, a parte qualcuno che è passato tra le 8 e le 9. Abbiamo ricevuto solidarietà da tutte le realtà fiorentine. Sono venuti i compagni del CPA a distribuire volantini, sono venuti i compagni di Corsica e sono passate tutte le realtà fiorentine a portare la solidarietà a noi. E noi rilanciamo la manifestazione di domani alle 5.30 in Piazza dell'Unità. Noi come studenti abbiamo deciso di aderire alla mobilitazione perché sappiamo bene di giocare un ruolo chiave in quelle che sono le politiche belliche dell'Unione Europea. Di fatto lo possiamo vedere dalla legge 2609, che prevede un inserimento violento della cultura della difesa all'interno degli istituti, organizzando gite scolastiche per presentare l'arma dei carabinieri, o addirittura accogliendo l'arma dei carabinieri il giorno del 4 novembre, quindi la festa delle forze armate. Oppure semplicemente lo possiamo vedere dalla collaborazione che la scuola di Sant'Anna di Pisa fa con Finmeccanica e la società dei droni, organizzando 20 corsi di alta specializzazione per personale civile in operazioni di pace. E noi a tutto questo ribadiamo con forza che non ci faremo indottrinare da questa logica imperialista, e che noi siamo a fianco dei popoli in lotta, siamo a fianco dei compagni del Kurdistan, siamo a fianco dei compagni ucraini che combattono contro i nazisti, siamo a fianco dei popoli che sono in lotta, una lotta di classe. E quindi per questo domani come studenti abbiamo lanciato una merenda contro la NATO, sempre alla polveriera, per poi raggiungere la manifestazione in corteo e fare uno spezzone studentesco. Sì, tra l'altro so che sempre a Firenze nei giorni scorsi c'era stato un altro episodio simile di intimidazioni sempre da parte della Digos in un altro istituto occupato, sicuramente complice anche tu il clima di avvicinamento a questo vertice della NATO che menzionavi, che quindi insomma cerca un po' di evitare qualsiasi elemento di attrito, di contestazione in vista di questo appuntamento, però appunto leggevo che appunto non molti giorni fa in un altro liceo artistico c'era stato un altro tentativo di ingresso della polizia all'interno della scuola. Sì, la settimana scorsa e metà di quella precedente l'altro liceo artistico di Firenze, con i quali siamo chiaramente in contatto, sono nostri compagni. E hanno fatto anche loro un'occupazione molto determinata, in cui hanno chiuso fuori i professori, una cosa che a Firenze non si vedeva da diverso tempo, un reale blocco della didattica, per come possiamo realmente intendere un'occupazione. Quindi è stato un gesto forte che a livello mediatico ha avuto molto clamore. Lì non c'è mai stato un reale tentativo di sgombero. La questura parla che avrebbe fatto lo sgombero il giorno che loro poi in realtà si sono sciolti, poi sono andati a parlare con il sindaco, e quindi sì, noi sicuramente siamo un continuo di questa mobilitazione, anche prendendo esempio dall'esperienza che hanno fatto loro, prendendo esempio, perché di fatto anche l'anno scorso noi abbiamo occupato contro la buona scuola, però non abbiamo avuto quella determinazione e quella radicalità così alta da riuscire realmente a fare un blocco della didattica, creando barricate, barricandoci dentro. E quindi sicuramente è stato, lo riteniamo un successo, perché abbiamo dimostrato determinazione, abbiamo dimostrato che non ci facciamo intimidire da minacce di denunce e repressione, e che anche a seguito di uno sgombero continuiamo a essere qua e continuiamo a ribadire quello che pensiamo. Va bene Andrea, noi ti ringraziamo e rilanciamo sicuramente anche da questi microfoni l'appuntamento di domani che ricordavi per il corteo cittadino, e speriamo insomma di riaggiornarci nelle prossime settimane per quanto riguarda appunto la mobilitazione nelle scuole, quindi insomma un in bocca al lupo anche per la vostra scuola e per speriamo nuove occupazioni. Crepi. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. We moon rocking, all the way to the motherfucking top, bitch. When I step up in the building, everybody know my name. Every step on the track, I be the sickest in the game. Today, sipping pain, I came to entertain. All eyes on me when I be fucking center stage. What? Blazed in the moon rocks, doesn't matter who rocks. Look up at the Luna and you're gonna see me moon rock. My crew rocks, all enemies getting dropped. Bitch, I can barely see you cause I'm wake up on the top. Fuck a friendship, and a defensive. Y'all already know who trash, they didn't eat my pussy for breakfast. Tell me what the fuck you saying? Think you competition? Get the fuck out of my way, bitch. I'll be stunting when I hop up on the mic. Miss Cooper tearing up like a dildo on a dyke. Top of my glasses, filled with magic, the hood and the daggers. But on the mic, I'm a savage. Turn bunny rabbits into Baphomets. Repeat that. Turn bunny rabbits into Baphomets. Stab preachers in the abdomen, front of Catherine. Melt your crucifix when I'm super lit off the moon rock. Slam OG, make my nose bleed. Ring around the rose leaf, ghostly. Then the flames ring around the holy. Then the ring around your eye, hit you in the head with the sky. I love big butts, I'm extra large. Love big trucks, slap sluts. Hand waved up, rubbing the gray pup. You a pimp with the lip, cut your tight shoes. You and gangsters would like watching the news. You're OG, but always lose your house keys. Fuck, man, let us in the house, man. So what you hear? To me, cause he got heat. The little homie whooped the nigga like. Nigga. Allora, quando sono le 12:27 ci prepariamo a concludere anche per questa settimana l'appuntamento di Parole Ribelli, non prima di avervi ricordato un po' di appuntamenti che non potete assolutamente perdere da qui ai prossimi giorni. E allora partiamo dall'università. Per domani mattina è stato lanciato già da alcune settimane dopo l'ultima calata del Fuan, che si risolve in realtà più che altro in una calata della Celere, un appuntamento per domani mattina alle 10 per una colazione in cui ribadire che all'interno dell'università certe brutte facce non vogliamo vederle. Soprattutto ci sembra inaccettabile che un collettivo che non ha ragione di esistere, che per la maggior parte del tempo dell'anno non esiste appunto, possa addirittura occupare un'aula in un ateneo in cui insomma la disponibilità di spazi per gli studenti non è esattamente all'ordine del giorno. Quindi l'appuntamento è alle 10 al campus Einaudi per iniziare la giornata con una bellissima colazione tutti assieme, poi insomma vedremo come evolverà la giornata, ci confronteremo assieme su questi temi. E poi questo venerdì 27 vi aspettiamo in Cavallerizza per la nuova serata universitaria a cura del collettivo universitario autonomo Disajungle 1.0, starting at 22 in Cavallerizza Reale, ripeto, e concerti live con The Ox Ita, Mario and the Sparkle Brothers Band, I Controtempo e da mezzanotte DJ set The Dreamer's Night. E allora adesso invece ci affidiamo alla sempre aggiornata agenda di Radio Blackout e torniamo alla giornata di oggi, martedì 24 novembre. Per quanto riguarda questa sera, ricordiamo l'appuntamento all'asilo occupato di via Alessandria 12 con la cena Benefit Centro di Documentazione Porfido, mentre sempre questa sera alle ore 20 appuntamento a San Salvario, più precisamente in Corso Dante all'angolo con via Madama Cristina per un presidio, un'assemblea antifascista in seguito insomma al moltiplicarsi di questi presidi antidegrado indetti lì nella zona da questo sedicente comitato di San Salvario che di fatto nasconde appunto i fascisti di Casa Pound. Quindi ci sarà questo presidio appunto per confrontarsi sul da farsi alle 20, Corso Dante, angolo via Madama. E andiamo avanti sempre seguendo le fidate pagine dell'agenda di Radio Blackout e arriviamo a mercoledì 25 alle 19 aperitivo Musicagna, ritmi tropicali con DJ Sbrock e altri, alla Blackout House dalle 21:30 presentazione del libro Devenir Perra, Diventar Cagna di Ziar Ziga con l'autrice e la fantastica traduttrice e tutta la banda che si è occupata, anzi tutto il branco che si è occupato di questa, appunto, di questo viaggio delle cagne tra la letteratura, ma è in questo periodo in giro per l'Italia. Allora, noi su questo direi che vi salutiamo, vi lasciamo ancora con un po' di musica, insomma, per concludere questa puntata e poi, insomma, ci risentiamo per i saluti tra qualche minuto. E questa è questa canzone dei Cunnilinguis, la dedichiamo alle cagne. Una brevissima incursione ai microfoni per leggere un sms che è appena arrivato al 346-667-3263 che ci segnala un posto di blocco in Corso Massimo tra Corso Vittorio e Corso Marconi, quindi come sempre ci si. There was a time when I couldn't find energy. The only person that was feeling me was Mrs. Hennessy. It's like life was pinning me down. I used to go out on the town and get instantly clowned. You ain't gonna be a rapper, not a backer. You're just a Kentucky boy, get yourself a tractor. Chasing after bogus dreams that you never achieved. That's when the liquor and weed became a need. Self-esteem was lower than Storkel City. Aspirations were about as big as Myrtle Urkel's titties. Then as soon as I started getting some pride, my sister hydroplaned and died on I-65. And a family full of cries, house full of tears. Spent many years with a bloodstream full of beer, heart full of fears. All jeers, no cheers, till the rhythm in my ears make my mind clear. Phone enclosed in my palm and go beyond the flow exposed in my songs. Can't grow far in the past memories, cause negativity leads the way to live with vast energy. Offended by the mental imagery that suggests living in poverty was really meant for me. Paternal tendencies towards chemical dependency had me thinking that all my enemies were kin to me. And I can't begin to see how to control the flashbacks and progress past. So my style of dress got me laughed at. Thought I was past that, but it tends to reoccur when I don't receive what I feel I deserve. Being slurred by those not living in my position, my thoughts tend to glisten just like a pot of piston. And when I thought I'd risen, life freezes the frame. So I hold the mic like a memory to ease the pain. Got me forever light and haze, trying to forget the times where I barely ate twice a day. Feeling alone and helpless, and when I only felt the shame of sharing a twin bed in a homeless shelter. A few friends, even then, most homies is fake. Like a prisoner in my home, pins were my only escape. I went from the block of my fam to college exams, but the pressure's still there. Dog, I'm still scared, but I know it'll all be right in the end, as long as I can focus my fears and channel my life through my pen. Channel my life through my pen. 12:35, Parole Ribelli è giunta al termine e lascia spazio all'info e alla, alla programmazione del resto della giornata. Ci si rivede martedì prossimo e vi do un saluto da Eddie. Un saluto anche da Francesca, come sempre l'invito a rimanere sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout. Tra pochi minuti l'info e credo a seguire Cattivi Pensieri, non abbiamo ricevuto notizie in proposito, quindi immagino di sì. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Buona giornata e buon ascolto.